saluto per farlo tutto, okay? Ciao Robby. Ciao, ho visto la Roma 3-2, che ha sfigata è stata, a me la partita comunque. Chi ha vinto la Lazio? Sta vincendo 2-0, poi ha fatto 2-1, stava sempre attaccando a Roma, a diverse occasioni ha fatto due parate con il Reina, proprio ha salvato il risultato, poi l'ha levato il 3-1, poi il 3-2, e ha avuto delle occasioni la Roma, diciamo sarebbe stato più giusto un pareggio, ma una bella partita tirata. Quindi ha vinto la Lazio. E io. La Lazio, anche la Lazio è forte, è maledetta. Va bene, dai, ci sentiamo allora. Ciao a tutti, quello che per me, buonanotte. Ok, vediamo se rientra Tottino o se c'è qualcuno che ha voglia di entrare. Avanti sul 10. Sì, sono tratto perché sono dovuto andare a prendere. Sono creato con le zanzare, sotto mi stavano attaccando. Sono qua io, dai, ci sentiamo. Tante cose belle, grazie per essere entrato, per i saluti. E niente, ci si riascolta le prossime. Avanti Roberto. Sì, sì, no, l'ho già salutato a Claudio, poi già ci vediamo spesso, già passa quasi tutti i giorni, viene a rompermi le scatole in officina, gente che lavora, cacchio, speriamo che non stia ascoltando. Buonasera. Mi, e che è questo? Buonasera, ciao a te, ciao Roberto. Aspetta, meglio, saluto a Tino che sto chiedendo, vai. Ciao a te, un saluto a casa, un abbraccio a tutti e già ci riascoltiamo, ciao anche a Cristian, ciao. Andare, ciao Cristian. Ah, Cristian, mi sembrava Eugenio, scusa Cristian, ci ha detto chi è questo, mi immagino Eugenio, mi senti davanti a te Cristian. Vabbè sì, non è che hai fatto un passaggio da riconoscere un'ovulazione, perché anch'io sinceramente non sei tanto alto di radio, quindi non ho ascoltato bene la tua ovulazione. Avanti qui, con i saluti. Ma ti abitiamo da a casa, e non riconosciamo l'ovulazione del mio apparato. No, il problema è un altro, che stai uscendo tutto frusciato, ti può dare conferma anche a Roberto, quindi la modulazione non è chiara, non si capisce bene, capito che? Avanti Roberto. Sì, confermo, ma poi credo che sia anche in movimento, confermi Cristian, c'è un segnale che cambia. No, se in fruscio è la base magnetica, non ti preoccupare. Non ho capito, ma sei in macchina o a casa? Sono in macchina, sempre in macchina modulo. Sei 9-10 qua, però c'è molto USB, diciamo, cambia molto il segnale. La radio si capisce ma non è eccellente, sufficientemente chiara ma non è un granché. Vai Tino. Infatti è per quello qui che ti ho detto, non ti ho riconosciuto per come ti vuoi dire, una radio tipo per farti capire come sta riuscendo, capito? Bene, bene, bene. Vabbè dai, c'è migliore che lo chiaro, dai. Vabbè, ognuno combatte con le proprie armi, diceva quello, quindi quello c'è, quello si usa. L'altro giorno comunque ti ho ascoltato discretamente, Cristian, quando era la rotonda, funzionando bene in macchina, stavi andando alla grande, infatti un bel segnale avevi. Vedi, della serie adesso è incomprensibile quello che avete detto, forse perché avete parlato entrambi, prova, dici. Ma guarda, sono anche per il Brickman, allora mi senti meglio. Sì, sì, vabbè, è sempre un po' frusciata la cosa, prova a schiacciare il mic senza parlare. È il rumore di sottofondo, l'ho amplificato, quindi ti copro un po' la modulazione. Comunque, insomma, bisogna stare un pochino con le orecchie, come dicevo una volta, un amico, con le sparatorie nelle orecchie. Dai, ci vuole pazienza, dai. A me ha sovramodulato lui in macchina da Bricome, Tino. Sì, vicino a Bricome, sì. Vabbè, io sono un po' più basso, però già in linea d'aria vicino a me. Ah, per quello che ho detto, che strano, sono in macchina, di che con quanti kilowatt sta uscendo? No, già, va bene, va bene. Sì, ecco, lasciamo un bianco un attimino se c'è qualcuno che vuole entrare, se c'è ancora Luca, avanti sul 10 che vuole entrare. Guarda, avete praticamente lo stesso segnale, vi annullate uno o l'altro, perché avete parlato assieme. E io. Ok, vai Cristian, a te il mic. Sto uscendo con 5W a volare a tiro, non posso pretendere di essere 9,50, Ma c'è, va bene, va bene. Io lo stesso, quando c'avevo la macchina lo accendevo quando ne avevo bisogno. L'ho acceso che ero annoiato, perché la radio mi sta annoiando, allora ci sono l'apparato oggi. Hai trovato un po' di compagnia, anche se non può andare a fare carica, quindi. Non ce l'ho da fare, la carica al frigorifero, che ho detto a mamma, ma che questo, che questo, che quell'altro? E sempre le 7:30 di sera, Va bene. Purtroppo la vita, Roberto, riprendi. Va bene. Vabbè, riprendo io, dai, adesso vado a vedermi la partita. Dai, ciao Tino, ciao Cristian e tutti gli eventuali amici qua a Canale 10. Curati da parte mia, ciao ciao, alle prossimine. Io ti volevo chiedere se sei riuscito questa settimana. A me piace. Sì, ma è uscito come il camper? Sì. Guarda, te l'ho raccontato un momento adesso che tale. Cioè, cosa mi è successo? Una giubbè su la finestra di sopra la mansarda e me ne sono accorto, boh, forse dopo una settimana. Perché tu la lasci aperta? Non aperta, io non l'ho mai aperta quella lì. Una volta solo quando l'avevo preso per vedere come rimaneva e boh. Probabilmente ho preso qualche colpo, muovi oggi, muovi domani. Sto andando a Trentino, alzo lo sguardo e dico, ma che strana questa cosa. Io quando vedo una cosa che non identifichi, beh, ma qua manca la finestra. E io ero chissà da quanto tempo camminando, almeno una settimana, perché l'unico colpo che mi ricordo di avere, però colpo relativo, qualche ramo così, quando entri in pineta, piano piano, vicino a Martis, poi altri colpi io non me lo ricordo. Deve essere piano piano, lesionato, si è aperta, tu e col vento ne ha camminato tutto. Vabbè, ma capita, siccome ne vado parecchi in strada con quello aperto, non sanno cosa fanno incontro, perché giustamente non oggi né domani, però un giorno o l'altro l'ho aperto. No, io ho sempre chiuso, soprattutto con la mansarda non la apro mai, anche per questione di tenuta, perché poi ti entra l'acqua e tutto. Vabbè, dai, vi lascio di nuovo, ciao ciao, buon proseguo a tutti e due. Andare, mi sto vedendo le foto, il video dei tetti che hanno aperto il di la veloce, che poi hanno là, diciamo farmacia praticamente, per capirci. Grazie a voi, siete in campo, io sono in punto. Ci vuole tanto a farlo, ci vuole la voglia di farlo e la continuità del lavoro, sono fuori dal resto, giustamente anch'io non è che mi è venuta così a me la cosa di prenderlo, sono anni e anni che era l'ispirazione, quindi poi sin che poi mi sono deciso. Ma voi ma che è stato un materiale, passando in campo a vedere col campo, già lo sai. Cos'è? Ma che è stato un materiale, perché già lo sai, l'ho detto come sono a casa io. Insomma. Io vabbè ho anche il posto per poterlo tenere, quindi già vabbè. Ma cosa stia vedendo? Purtroppo come la famiglia come ce l'ho io, è possibile uscire col camper io, capito? Sì, sì, non scendere alle cose, già ho capito. Stai appena innescando. Io c'è l'antenna sicuramente, la base magnetica. Sì. Stamattina mi ha visto lui, stavo andando in campagna, l'ha suonato. Domani si è detto vabbè ci vediamo perché sono un po' senza vedere anche Antonio, l'altro lo chiamavo, domani è una giornata libera quindi già ci sentiamo. So io che non lo sento, sono però un paio di mesi. Sì addirittura non è che ci trattavo molto con mio fratello. Allora niente, sono cose vostre, non voglio sapere niente, arrangitevi. Non so cos'è a caso, uno che fa di su e si campa sempre 100 anni. Non so niente, non voglio sapere niente. Sono cose che effettivamente ognuno c'è sempre una peconera, quindi. La Grecia, ma allora, stavo pazienza, però meno male, dai, ci sentiamo ogni tanto, dai. Alla Bex. Ma se usciti più forte forse, dai. Sì, no, ti sento, forte sei forte, è che la radio, ti ripeto, è un po' così. Adesso sono il microfono che mi ha procurato Antonio, un Proxel con l'Echo. No, adesso va bene, sì, anche 9.40, quindi va più che bene, la radio anche va bene, non fa più frusciando come prima, forse perché stai andando più piano, boh. Io sono parato. Può essere allora. Scusa un attimino qui. Sono rientrato. E così, oggi, ti ripeto, oggi l'idea era di uscire, ma poi mi pare che ma non ne ha fatto una cosa vostra. No, a parte il caldo, però sotto una tromba d'aria, non era grandissima, però insomma, ha fatto un po' di danno qua in zona praticamente, mi ha rotto un altro di cose di alloro, mi ha rotto un'antenna, ma niente di. Mi preoccupate, grazie a Dio, Bene, dimmi una cosa, quando è che ci organizziamo per la guadagna? Io la prendi, c'è un buon la tua. Vabbè, ce l'ho da casa, in giro me la porto. No, non ho capito. Ce l'hai a casa. Ah, a casa ce l'hai. Vabbè, voi non le usate, scusa. Sì, io ho stufa. Ah, ho capito. Andare. Allora dobbiamo organizzare qualche furgone, qualche cosa, boh. C'è il tanto di un camioncino. Non lo so, bisogna vedere, bisogna che venire a vedere perché non ho cosa dire, guarda. No, così lo prendo a loro oppure boh, lo faccio prestare, non so. Ma sono per l'imperale, forse con Carello la macchina ce la facciamo, dai. Ah, ho capito, e quando ci alleggeriamo un pochino di cose, dopo ci sentiamo qui e ce lo facciamo un viaggetto, va. Fino a moto, sì. Va bene, dai, che mi allontano, che ci è arrivato a casa. Fino a moto, sì. Va bene, dai, va niente, anche io mi devo spostare, quindi mi approfitto a salutarti, che dai, ci sentiamo con calma. Un abbraccio, fate cose belle, salutami in casa, dai. Fino. Ciao, ti stavo chiamando. Ma sono andato via da là, capito? Io vado a prendere il tram dopo. Non avete lasciato un minuto di spazio là, niente, ho chiuso. Ho detto in moto, sì. In moto? Ho detto rumore che va esotto. Ventole, ventilatore puntato a petto. L'altra ventola che sta facendo l'apparato, quindi sono in moto, sì, un po' di vento c'è. Ho fatto in moto, rumore della marmita. Così. Sì. È perché ho il microfono molto vicino all'apparato. Ah, ho capito. Vabbè, dai, se sei andato, tanto io sto facendo un lavoretto qua. Cioè, io rimango in ascolto, se entra Antonio Bombolo, se no dopo spengo, va bene, ti. C'è su ginocchi. Io non stavo chiamando poco fa, ho detto, ma forse il telefono è uscito, l'ho detto a Claudio. Vabbè, aspetta un attimino, che sono chiamato qui, c'è tanto arrivato a casa. Ciao qui, ti ripeto, saluti a tutti. Vai Luca. Non so se mi ascolta, ciao Cristian. Ciao Luca, mi ascolto, sempre bene. Mi hai sentito Luca? Sì, ma insomma l'ho sentito, sì. Dai, via, ho risolto il problema del nuovo gioco. Ho sistemato un Nintendo Switch. Qui si è Zenturio, praticamente non so come cazzo ha fatto a rompere il connettore. Purtroppo questo bambino è autistico e ogni tanto fa danno. E gli ho sistemato il connettore, un casino è stato, metti, un casino qua. Però sono riuscito. Vabbè, meglio così, dai, almeno ti è tolto la soddisfazione tu e è stato contento con lì. Sì, in effetti così, sì. Perché non è facile, è molto, molto difficile. Poi ci vogliono gli strumenti adatti, che io ancora non ce li ho, ma non ce li ho, dai, qualcosa mi manca. Però a stare lì a spendere soldi e poi la gente non ha soldi per pagare, cosa vorrà spendere soldi a cosa? No, vabbè, il proprio lavoro insomma, si deve far pagare, purtroppo chi non ha soldi non può pretendere, però giustamente se io impegno il mio tempo e quello che faccio per te, insomma, non è che conta gratis, posso fare un favore, un amico, un conoscente, però se devo lavorare devo andare a incassare, non devo andare a farmi fottere, tra virgolette. Beh, in effetti hai ragione, è così. Purtroppo, vabbè, comunque l'ho fatto, lavoro e niente. Adesso la riconsegno, ho avuto un problema che non leggeva la SIM, perché il lettore SIM dei giochi c'ha un flat, non avevo chiuso, però lo facevo a contatto e non funzionava, adesso dovrebbe funzionare. Ah, bene, meglio così. Senti, sono cose belle, sono tutte questa cosa, del Zenturo quasi. Sì, lo so, aspetta, quello lì c'è quello rosso e nero, rosso e blu, non mi ricordo, quello lì è. Questo è Verdolino. Ma che cazzo fa a spendere 300 euro in una cosa così minorita? La gente, guarda, io oggi ero alla presenza di mio figlio e c'erano dei bambini piccoli che col pallone, il pallone ha parcheggiato loro casa, chiedendo al padre di dargli il telefono perché volevo giocare, e quindi la cosa sta cambiando, non è che ormai sono tutti così vicini, vogliono questi giochi qua. Vogliono cazzo, sì, mi lui sì, ma rimane ancora via mi telefoni. Vabbè, queste ragazze di oggi sono non fortunati, super fortunati. Ma non lo so, perché io quando ho fatto la mia infanzia mi divertivo con niente. Non gli avevi mai, diciamo, perché o vuoi una ruota di bicicletta, o vuoi una partitella col pallone, o con la pallina al tennis, ma diciamo, ci mangiavamo dei giochi pur di non stare seduti nel divano a rincoglionarti con questi giochi, ecco, perché la cosa realtà è quella, Sì, confermo, è vero. Sì, con poco, io la verità mi ricordo il famoso fil di ferro o cerchione della bicicletta, tanto mi divertivo. E allora, a correre, mi lascia perdere, sono divertimenti. Poi vabbè, la tecnologia è giusto che vada avanti, per carità, però se non è usata correttamente, o fatta usare correttamente, può anche danneggiare, purtroppo. Lo so perché anche mio figlio, io non mi metto indietro agli altri, anche mio figlio, il piccolo, è preso da questo TikTok, dal tablet, queste cose qua, anche se per dire un po' bisogno anche di dirmi, capito? Cioè, non finisci mai la cosa cosa, va a giocare. Sì, hai saputo che è morto, sì. No, però ho saputo che hanno coltellato qualche giorno veloce. Costanzo Mezzocchio, te lo ricordi, Costanzo d'ore, io c'è tra me la bazzone. Sì, Costanzo, È morto. Ma di cosa? Malattia, cos'è? Tumore, facciamo male sempre il braccio, e poi abbiamo sbattuto questo tumore, ormai è troppo tardi. Costanzo, io non lo ricordo, che poi, vabbè, adesso credo che a 65 anni ce l'avrei avuti, sì. Era del 57, mi pare. Boh, non mi ricordo, però già, non mi ricordo che era più grande di me, quindi. Sì, comunque c'aveva intorno ai 64 anni. Casotto. Io penso, cioè lo dico, la sigaretta fa danno. Già può essere, io fumato, non fumato, per carità. Però poi sono già bene a 16, 17, 18 anni senza fumare insomma. E io dal 2008, 13 anni. Allora, vabbè, abbiamo messo più pancia, però. Sì, pure a me ci dà la pancia, sono solo a te. Già via giù pure io, mi sta accorgendo di avere, non mi siedo, c'è, prima non c'era. Infatti, e se continuo così tra poco non mi si vede la bicchierola dall'alto, E quello è vabbè, c'è sempre il rimedio, che ti prendo uno specchio. Allora, io. È un casotto, però sai cos'è, mangiare è bello, è una cosa buona, formale, non si sa più come comportarsi quando fanno delle festicciole da fare, non mangi. Non lo so, purtroppo ogni giorno bisogna mangiare, ma sempre di mattessi cose, lavarti, perché ti devi lavare, mangiare, bere, così, non lo so cosa fai. E allora, vabbè, io sto cercando di mangiare sempre meno, però non vedo cambiamenti, quindi molte volte una berretta alla fine serata con l'amico te la fai, non è che te la fai, ma ti privi anche di questa cosa qua, hai finito di vivere. Lo so, purtroppo così. È un casino, vabbè, pensate che ci sia la salute, ogni tanto mi misuro la glicemia, la pressione, stasera non lo misurate, è a posto. Diciamo che io grassi non ne mangio più, però ne abbondo magari, cosa ne so, con la pasta, poi magari cosa ne so, l'insalata non ti fa ingrassare, i formaggi, queste cose così, frutta go. Vedi, io di frutta ne approfitto, diciamo, un po' la mattina perché per una pausa più che altro, capito? Però non sono un grande mangiare di frutta. No, io ne mangio un bel, guarda, dai kiwi, banane, poi meloni, pesche un bel. Qua frutta lì, qui c'è la cacca, il cacco mi sono mangiato, di campagna, buoni, dolci, quelli piccoli che sembrano palline da ping pong. Noi li chiamiamo bignè, sì, ne ho un paio d'alberi io qua, e adesso stanno, qualche non c'è conto, diciamo, va. Sono quelli gare, chi è? Sì, quest'anno ne ha messo un bel, è vero, ma che uva quest'anno, Sì, qualcosa già la stiamo raccogliendo, diciamo, ma pensavo che c'erano più olive, quest'anno invece non è proprio annata, ma qualche litro fuori a cesce. Lasciate che mando un messaggio alla proprietaria, dico che il tablet è a posto, ma il gioco. Ehi, aspetta, se non mi dimentico, Madurino, se è sabato ancora, hai capito che sto dicendo? Mario De Palma. Ehi, sai che non lo so? Devo portargli il cane, ma ci siamo sentiti al telefono, solo che non volevo disturbare per vedere se è sabato ancora. Non lo so, non te lo so dire. Già sono qua. Ma no, un risotto ti dà. Ah, già fatto, mandale. No, volevo portare questo cane qua per aiutare per qualche comando interessante, diciamo. Sì, adesso già lo legge. Praticamente non avevo chiuso non so se li conosci, i giochi c'hanno i telefoni, c'hanno quei cosi che tu se non li chiudi non fanno contatto. Sì, ho capito. Però l'avevo chiuso, dalla fretta, vabbè, non c'è la posto. Adesso li controllo, se carica. Perché ti ho detto, come ti ho detto prima, il figlio è autistico, che distrugge molte cose, si incazza, ma ripare si incazza. Gli ho detto di caricarlo lì, poi una volta che carico di staccarlo, perché se lo rompe di nuovo è un casotto. Certo, ma poi quando la cosa riparata è sempre riparata, non suol dire un vaso quando lo rompi, anche se lo aggiusti, è sempre un vaso rotto. Ma ti posso dire che sono massicci come connettori, non so come quelli del telefono, cioè di quelli prima, non quelli di adesso, tipo quello che c'è tu nel forse il G5, quelli sono più delicati come cose, questi qua sono più massicci, sono come quelli dei telefoni di ultima generazione, così. Come cazzo ha fatto la roba non ho capito. Sai, quando molte volte anche questi caricabatterie si sono messi male, non è che un casino, cioè rientri male, rientri sordi appena appena. Beh, io ci stimato da voi. E quella era loro, lui. Se tu, allora io per esempio lo lascio caricare. Quando finisce che carico, stacco, ma che poi scarico, attacco il caricabatterie e mi metto a giocare, poi lo tiri, si spacca. Lo so, ma io nel telefono stesso faccio così. La notte prima di comunicare lo metto in carica, credo una mattina lo stacco, poi. Non sono sempre, anche lui l'ho detto a mio figlio, non devi stare sempre a attaccare, solo non gli danno neanche tempo per ricaricare, perché se c'erano al 17% dovevano giocare, capito? Infatti, lo rovini, a parte che rovini anche la batteria, poi lo stai sempre caricando, vabbè, per esempio il mio lo sto usando, lo uso per cercare cose, faccio ricerche, capito? Tutte queste cose qua, e lo uso molto, la batteria ci sta durando non molto, sì, mi fa tutto il giorno, però prima mi durava di più, vabbè, il telefono ha già 2 anni, e adesso vediamo, se funziona così, me lo apro, me lo cambio. Telefoni buoni, Allora, telefoni buoni, io ho un telefono buonissimo, solo che lo devo portare a sbloccare, perché non si ricordano le mail, una 40, che è un bombo quel telefono, va. Fa le foto meglio del mio, che è il mio dell'S10. Non me ne intendo, io non so neanche cosa... Andando a comprare un telefono, sinceramente non so cosa comprare, figurati. Sì, la 40 è un 16 giga. Ah, scusa, un 64 giga. No, ho capito. E adesso non ci posso dire per sbloccarlo, ci vogliono 50 euro lì. 50 euro per sbloccarlo, cosa cazzo, visto, meno di 120 non lo do, Ma è nuovo di fatto. Quanto tempo lì avevo pagato? Quasi 300 euro. Io ci credo, non è che... Io non intendo di telefono, non so neanche... Cos'è un Samsung, cos'è? Sì, Samsung. un Galaxy A40. No. Vabbè, ma io non lo conosci, comunque poi tranquillo, è così, costicchia. Domani al lavoro ti. No, domani sono una cosa giornata libera. Ah già, vabbè, la sapevo con la ditta, sì. Sì, è bello. Sono devo fare commissione, fare cosa, quindi torna, ci vediamo martedì. Vabbè, se non mi sono problemi, già va bene così. Già va bene. Poi siamo una ditta seria, già capisce. No, io non ho problemi, io sono. Come ti posso dire? Tipo organizzatore di lavoro lì in quella ditta, capito? Quindi non c'è problema. Ho fatto di tutto per organizzare lavoro agli altri e niente. Ah, bene, bene. Sì, vabbè, dai, diciamo come un capo cantiere. Sì, dai, una sorta del genere. Sì, vabbè, va bene, dai, allora già non faccio ci siamo problemi, sì. È interessante lavorare. Interessante lavorare. Io ancora non ho fatto niente. Avevo qualcosa che ti avevo detto, ci avevo soldi messi da parte. Comunque inizierò a ottobre, dai, metà ottobre. Ho capito. Ma noi lo stesso, dai. Non stiamo riuscendo a trovare. Vabbè, a me mi serve qualcuno di sabato per fare qualche lavoro per i fatti miei anche. Non è stata un po' di gente. Sì, c'è un po' seria, un po' che sappia muoversi, gente che sa cosa deve fare, ecco. Tipo lavoro di muratura, la muratura è così. Sì, anche quella cosa lì. Io un po' mi arrangio, ma non è che so come sta. C'è un po' la tappa atrás, c'è il buon gridafo, non è visto il problema. Se c'è il parfum lo faccio tranquillamente, solo che dipende. Ultimamente quando stavo lavorando con un amico che gli ho dato una mano in un appartamento, la mia schiena si è mezzo bloccata, infatti andavo prima di andare al lavoro un occhio, poi mi mettevo la fascia e mi mettevo anche la pomata, se non la vazia a travagliare. Adesso per dire anche a casa di qualche amico devo fare dei lavori che però serve gente che sappia cosa fare. Io da solo ho detto ancora qualche uno che si possa muovere, perché non è che posso fare tutto io. Addirittura che ho preso un ragazzo 25 anni, sì so fare cosa vuole, per loro tocca portarlo a male, ma lascia perdere, non è lavoro per te. Loro ci provano, io la verità già mi arrangio, non è che non mi arrangio, mi sono sempre arrangiato, solo che la schiena è quella, la schiena mia, infatti io ho fatto tutta l'intervista, tutto quanto, la musica, ancora non mi hanno chiamato, a fare un po' di fisioterapia, adesso vediamo un po', ripeto di nuovo le visite, vediamo un po' se mette le condizioni di stare meglio, ecco. Certo. Però io nel mio piccolo già mi arrangio, ma quando mi piace qualche lavoretto di dimmi anche a me qualcosa, me la faccio da solo, sono cose piccole. Caso, sai, io penso sempre a questo cacchio di aiuti che stanno dando, che per carità c'è gente che ne ha bisogno, c'è gente che sono d'accordo, però credo che qualcuno se ne stia anche approfittando e non ci viene a lavorare per come ti vuoi, ecco. Lo so, lo sai che mi hanno chiamato a me, sì, a ottobre inizio. Bella storia, vabbè. Che bene, meglio per te. Io l'ho sempre detto, ci mancherebbe. E solo stavo chiedendo un po', quando ho fatto qualche giornata lì con Filippo per fare i prati sintetici, se mi metteva in mezzo, tramite questa cosa qua, però non mi ha mai dato una risposta. Ah, sì, ho già capito, Filippo. Vabbè, quello è un bel lavoro stesso, vedi. Un bel lavoro, pagato bene, io prendevo la mantella al giorno lì. No, ma è bello nel senso che è bello anche farlo. Sì, senza dubbio. L'ho pagato bene, spesato di tutto, stavo non meno, di più. C'è anche Daniele lì. Esatto. Sì, io li conosco, lì, a Buglia. Mi sembra, ho mandato anche a mio cognato una volta, la vuole lì a Franco. Adesso ho preso un altro ragazzo, Stefano, mio amico, da panettiere, lui. E poi si è formato e non li piazzi più. E allora sono andato lì. E dice che è bravo, fa di me, ecco, là ci accusi. Io l'unica cosa che non sapevo fare è tagliare, non è semplice tagliare. Se mi sbagli nel taglio si fu il titolo, ho detto tagli il pezzo grande, poi costa, non è che... E alla fine gli ho detto, se voi io vengo con me, poi man mano col tempo imparerò pure io. Dai, un attimo, che mi sono chiamato. Scusami, tu, dai, devo uscire a prendere mio figlio. Ecco, lo sentiamo più tardi se ci sei là. Ti ha acceso qua, ti vai tranquillo, ciao. A più tardi, alla prossima, ciao. Via, ciao, ciao, quando la prego ci prendo. Ciao. Via, ciao, ciao. 1, 2, 3, prova, canale 10. Ciao Fabri, prova, prova. Eccomi qua, una prova volevo fare veloce prima di andare a cena, se stavo uscendo questo apparecchio. Una bomba Fabri, fondoscala, bella radio, bella, perfetta. Ascolta, devo fare una prova, è possibile provare sul canale 45? Vai, prova. Vado sul 45. Mm. Attenzione 10, attenzione 10. Fabri, sono andato al 45. Ma sicuro che eri 45? Ma aspetta, devo passare il tastino, vai, riprova. Allora fai invece il 45, fai il canale 50. Ok, vai. Ci sono. Eccomi qua, come ti sembra? Prova, qua fai il passaggio, prova, mi sa che non lo fa il rumore, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qua è a posto, perfetto, lì c'è pulita pulita. Prova sul canale 45 allora, vai. Vai. Mi stavo conservando tutto. Poco fa è stato Fabrizio, è entrato. Qual è delle prove? Ah sì, stava riprendendo una radio. Forse una nuova recensione di una radio, come ricordo. Sta andando bene. Sì, nei canali normali ok, va a posto. Nei canali altri c'aveva questo. Boh, questo tipo gracchiava un po'. Non gracchiava, boh. Tipo l'innesco là. Ho capito. Io adesso sono andato con mio figlio e stavo facendo, mi sono mangiato due tramezzini tra la cucina e il salone, là. Sì, è molto interessante. Andiamo bene, dai. Io bene sta andando, tipo, io questa qua l'avevo bisogno di morti di pappa, baracchino. Va bene, anche di più, va bene, va bene. Andiamo a vedere, lasciamo vedere, a proposito. Stazionare, boh, non ho peccato il rosso, metto niente, boh. Se quello va a te, avevo pagato un solo metro. Se ho girato due volte, mette tru. No, a me mi serviva un accordatore, vabbè, l'ho usato un altro, diciamo che ce l'ho, non è serio, è un 2001. Quello era dettagli molto funzionale, per gli apparati normali. No, guarda, che se trovi qualche amico tuo, se poi se diciamo qualche amico camperista, col camper, dai. Un baracchino, il mobile come la BB40, nuovo nuovo, compreso di staffa, funziona bene. 50 euro se lo porta via, porta a piazzare. Ma guarda, un mio collega di lavoro che ce l'abbiamo preso praticamente quasi assieme il camper, e anche lui aveva già tutto l'impianto, la panorama per il CB, non gliene frega niente, perché ne avevo uno, gli ha detto, te lo regalo uno, un 1048, un doppione, no? Aspetta, mi ha detto, uno. No, non me ne frega niente, a tutti i gruppi del baracchino, anche perché sinceramente in viaggio io sì, lo tengo acceso con lo squarcio, quindi se sento qualche duro ma dentro, però è quel tragitto che fai per dire da Sassari, che ne so, Sassari Alghero, Sassari Argentiera, fai Sassari, ho fatto anche Eurosì, con le parti lì, mi sto girando metà Sardegna anche, figurati, solo che non è che e senti gente come con un tempo, come prima bastava che stavi sul 5, facevi una chiamata, c'era il mondo, capitolo, quindi però che sono quei camper, due o tre camper che sono vicini, allora diciamo sì, ma se sei in solitaria, tra virgolette, non è che senti granché, ecco. E vabbè, la maggior parte delle persone ci hanno il baracchino così. Vale, si incrociano, si chiedono informazioni, tutte queste cose. E vabbè, non è tutti gli piazzi, volevo questo coso. Poi chi c'ha la passione, come ce l'abbiamo noi, Allora, tutt'altra musica. E allora ti hai messo nel camper, ti? Quello che io, allora, lo stesso impianto che avevo nella macchina, l'ho piazzato lì nel camper, ma devo dire la verità che non ho fatto grande fatica, perché l'antenna era già piazzata sopra il tetto, addirittura non al fianco come solitamente lo mettono i camperisti, questo è proprio sopra il tetto, è un lavoro ben fatto, e poi niente, ho attaccato l'alimentazione e basta. Quello che avevo in macchina io, il mio era 48. Cazzo, vanno benissimo quegli affari, io avevo 68, ma me sono pentito da averlo dato questo 68. Era nuovo, nuovo, funzionava benissimo, mica fa normale, era un miglioriero con l'apparecchio. No, vabbè, penso che io l'unica cosa che non va bene per me è lo smitter, ma perché insomma, non ho pensato ancora con Pugno. Lo smitter forse è nero, comunque non ricordo, non è il suo originale, e quindi non è un bel affare come segnale, come rapporto segnale, e quindi non lo tengo neanche in considerazione, però come radio va più che bene. Sì, va benissimo, solo che vabbè, in casa non va bene, quando sei in viaggio va benissimo. Guarda che mi ha dato un messaggio, quindi... Aspetta che prendo il telefono perché ce l'ho in cucina. Ma anche no. E non mi interessa perché... Non mi interessa. Sì, ahia. Andava. Aspetta, ne mando un altro. Ma infatti pensavo, magari ora vedi. Vabbè, non fa parlarne qua. Sì, ho saputo perché... ci siamo incontrati, ecco. Aspetta. So tutta la storia. Lo so, è la classica persona che vuole allontanarsi gli amici, quindi cosa vuoi fare? Non lo so, mi interessa. Va bene così. Vabbè, te sa stare bene, poi del resto un po' come può fregare, guarda. Chi mi vuole cercare mi cerca, sennò se la piglia come te possa amare. È vero, Pugno è in casa sua, quindi non mi interessa. E so che ha perso molte cose, quindi peggio per lui. Non mi interessa neanche sapere né come fa né come non fa. Ah, io devo comportarte. È così, si è comportato male anche con me, quindi non mi interessa niente. Magari ci si incontra sul lavoro, se stanno chiamando. Eia. Casino, Cazzo, se ti comporti bene, ti incontro la vetta, no, Cazzo, se ti comporti male, cioè, le tratti male le persone, allora. Luca, intanto può cuomo, nemico. Buonasera, lo so. Vuoi parlare con muro per parlare, eh? Per parlare con muro tu, eh? Guarda che Luca è un uomane. Per carità. Aspetta, guarda cosa ti mando adesso, aspetta, in diretta, aspetta. Come finire? Un amico me ne manda. Come la dire? Senza reale, la sua pagata è una cosa. Certo, hai sentito la cosa, hai sentito la cosa, hai capito quello che ho detto, ma è una grande pagata. Hai capito, coglione? Altri tempi. I tempi che furono. Per carità, guarda. Mi stavo aspettando, sabato non ci sei venuto lì. Sei un po' comane. Cazzo, Natali, wow, impegni a mille. Non sono venuto, sai perché? Mi ha chiamato un amico, ma queste cose mi danno un fastidio, guarda. Ma se non posso venire, cosa cazzo ti offendi? Fa l'offeso, non si può subire. Cioè, capo, non fa questo amico, infatti devo mettere le cose in chiaro, mi. Io sono un amico, però queste cose che, vabbè, bisogna tenere parole di persona, là. Non posso parlare qua. Vabbè, là, ci sentiamo, che io me ne passo in quel rettimetro a salutato Concetto. Sì, ho sentito, adesso l'ho modulato. Ciao Concetto, buonanotte. Si cambia. Ciao Pino. Vabbè, là, io me ne passo in quel rettimetro che devo fare cosa. Alle prossime. Ciao Natale, ciao. Ciao Natale. Allora, io avevo domanda a Stefano, un amico, mi ha mandato un po' di cose. E lui è così, carottino, purtroppo è così. È così. E vabbè. Adesso vediamo, boh, qualcosa uscirà anche per me. Quindi muso, via. E allora, basta aspettare, tanto le cose vengono da sé, già va bene. Però io ho dovuto mollare un po' di piccole robe in corso perché sinceramente non ce la faccio a seguire uno all'altro, quindi mi dispiace perché effettivamente sono degli amici che meritano. Io non per fare, non è che per lasciare, stavo parlando poc'anzi anche con Claudio, non è che per lasciare le cose primarie praticamente per le secondarie, ecco. Quindi quando ci saranno dei periodi buchi magari si riprenderanno. Ah, beh, certo che sì, ma comunque qualcosa già la sto facendo, non sono proprio a bocca asciutta, sai, i miei piccoli lavoretti mi escono sempre. Eh beh, certo. Adesso mi devo incassare 130 euro. Mariso. Sì, aspetta, però di questi 130 euro, non so, tutti per me, allora di questi 130 euro sono 70 euro puliti. Mettiamo un altro messaggio. Già va bene. Per carità. Crocro. Aspetta, chi tu è stato in macchina, avrei avuto la mia macchinetta, invece purtroppo se mi viene mai in dentista e di no. Dai, penso alla salute, fregata. Io ho fatto, vabbè, diciamo la verità che ne ho approfittato con la cassiere perché non mi ricordo quanto pagavo la cassiere, se il 50%, quindi al dottore ho detto fai tutto quello che c'è da fare, poi ho pagato tutto quanto, la cassiere mi ha rimborsato il 50%, però diciamo che era una cosa che non c'erano grossi lavori da fare, però ho speso intorno ai 3.000 euro, non mi ricordo, tra le ferrà. Cazzo, non c'è niente da fare, 3.000 euro sono meglio di niente. Allora, il primo, ho un problema a devitalizzare un dente, perché me l'ha otturato, però con l'acqua fredda mi sta facendo male. Allora, guardate come fa, lo devitalizza, 120 euro mi prende per farlo. E poi allora, mi ha detto metà ottobre fino a ottobre, comunque vabbè, in questo mese di ottobre mi fa tutto il lavoro che mi deve fare. 8.500 euro in tutto. Scusami, ho sbagliato, non 3 milioni, era in lire, adesso ho pensato di dire con l'euro, e quindi insomma mi ha risarcito la metà. Vabbè, lui, se è da fare, guarda, tanto lo sai che i denti sono molto importanti, soprattutto perché insomma se indicate è ferro e poi anche l'immagine della persona, ecco. Ma anche per mangiare soprattutto, non gli mangia una cosa, non te la gusti bene, quando non ce la fa mangiarla bene, lo so, ho detto che purtroppo ho avuto questo problema e sennò questa sarei stato in macchina. Ma stavo comprando una macchina per lavoro, una macchina così, a cubarazzo, la stavo comprando anche poco. Una Lancia Y del 2003, cioè avevo 80.000 km. Un po', era un po', come si dice, sbiadita là, dal sole, ma chi se ne frega, un batta nuovo, era abbastanza messa bene. Dopo 100 euro poi stavo contrattando e poi l'avevo già venduta. Mi convinto questo questo qua, questo mio amico meccanico, ce l'aveva ancora, cioè che la macchina ce l'aveva lui, però il faro della macchina l'aveva già venduta. Se ti interessa qualcosa riusciamo ad averla, e quindi non sapere se la vuoi prendere, perché adesso ne trovo con Lancia Y, un modello buono, però cioè un semi nuovo, diciamo, là. Ma stiamo dando, se lo va a fare fuori, 500 euro, ma poi vabbè, ci vuole il passaggio. Un motore nuovo addirittura, perché è un affuso, quindi ha messo un motore nuovo. C'è stato, scusati, vabbè, ora come ora no. C'avevo anche soldi che ho messo da parte, purtroppo la cifra è aumentata. Poi gli aggiorno tutti, dai, per quanto riguarda la cosa che devo fare. Avanti il che ha bussato. Ciao ragazzi, sempre in AM, sempre in AM. Sì, chi è? Avanti, buonasera, siamo in AM. Sono l'amico di Casanova, di Ricchi. Ah, ok, buonasera. Cioè, cosa vuol dire in AM? FM, non ho capito. FM vi sentivo male, in AM vi sento meglio, era per provare a vedere un pochettino come state e tutto, e vi lascio tranquilli a chiacchierare. No, non c'è problema, se vuoi intervenire è fatta apposta per farci due chiacchiere. Io sto benissimo, ti mando avanti l'amico Tino, cioè se ti ascolta, avanti Tino. Lo ascolto, ma basso, non so chi è, buonasera. No, il nome che uso è Tony, sono amico di Casanova, un amico nella zona di uno di voi, dove abitate voi, verso la questura, credo, in quella zona lì. Sì, Riccardo è un mio amico, dai. Sì, già ci conosciamo da una vita. Io sono qua al monte, non proprio vicino alla questura, comunque vicino alla chiesa, dai. Tranquillo, ogni tanto provo a vedere se funziona sempre l'ultimetro. Vi lascio chiacchierare, ragazzi, stacco e chiudo, grazie, un abbraccio a tutte e due. Ok, ciao, buona serata, buonanotte, alla prossima, avanti. Ciao, come va? Io, vabbè, questa cosa non credo averlo mai sentito. Vabbè, sono da poco, quindi non lo so. Ma sei amico di Luca, forse lo conosco anch'io. Va bene, buona serata, dai, ciao, buon proseguo. Sì, Riccardo, l'amico di Riccardo abita qua al monte, ma lo conosci, di vista sicuramente lo conoscerai. Ma sti col cognome, ma lo conosci pure. Vabbè, ci manco qualche anno, quindi le cose sono cambiate, le persone sono cresciute, quindi la memoria si sta allontanando. Gaffa. Ma lo conosci, ti ho mandato il cognome su WhatsApp. Sicuramente l'avrei conosciuto, perché che tu facevi parte del monte, ti sei infinocchi. Io abitavo lì. Aspetta che l'ascolto. E mi sa che anche dell'anno tuo, Sicuramente dell'anno tuo. Ma 20 anni? No, non c'entra niente con quelli. Buon anno, vabbè, lo stesso cognome, quindi. Ma magari sono parenti, non lo so. Mezzo parenti, forse, non ti vorrei dire una palla a te. Però sicuramente lo conosci, vabbè, sono passati un bel po' di 30 anni, vabbè, lui abita sempre qua. Sicuramente è dell'anno tuo. Tu sei del 71, sei del 70. Del 70. E Giuseppe Paruffo era alla Peolce per far vedere. Pure hai pubblicato. Sì. E non me lo sento giù da Peppino. Se lo conosci come te Peppino, lo conosco una vita, va. Cazzo, ma ho 30 anni di più. Io ci ho lavorato con lui da un ragazzino. Sì, e ogni tanto già lo incontro, facciamo due chiacchiere così. Adesso se trova bene, venerdì vado a mangiarmi la pizza a lui. Vado via e te la offro io, ti siedi, ti mangi la pizza, va bene. Ah, perché cos'è la pizzeria? No, io vabbè, l'ho visto, non è che lo conosco personalmente, diciamo l'ho visto in un tabacchino, in bar, normalmente. Sì, la pizzeria c'ha, adesso mi come il nome di quella pizzeria, mannaggia, e di fronte al grattacielo rimane, dai. Ma ecco, ho capito. Vabbè, non sapevo neanche che aveva la pizzeria, figurati. È buone, te le fa pagare, ma sono buonissime. Quelle con il bordo alto, metti. Tu pensi segue la Margherita, te la fa pagare 6 euro, ma immagino la Margherita. Dicevo, la Margherita vuole contrapalle. Contro la palla, per esempio, con Bessia. Buona, sì. Un po' caruccio, però mangio la pizza come si deve. Tra gusti tutta. Quando prima una cosa, io sono sempre per parere. Ma guarda, sono un pregio, un difetto, quello che vuoi. Io non ho mai fatto economia sul mangiare, quindi non mi stai dicendo niente di nuovo, come, nel senso che se vuoi una cosa, anche se costa la prendo. Beh, alla fine se vai a spendere 4 euro e mangi una classica margherita e ne spendi 6 euro e mangi proprio la pizza napoletana, proprio, guarda, io l'ho mangiata col prosciutto, ma guarda, una bomba. Già dal bordo, già da lì ti sazi. Guarda, io sono andato, senza andare molto lontano, a Sentino, lì a Bagaglino, c'era una pizzeria proprio napoletana, perché l'anno erano venuti i napoletani che avevano preso la pizzeria in gestione e mi hanno fatto mangiare la pizza fritta, ma guarda, io non l'ho mai mangiata, quindi dove proviamola, ho detto vedrai che se la prendi te la rimangerai io, sto aspettando il giorno di andare a rimangiarmela perché era veramente buona. Stavo ascoltando un messaggio da 25 che poi fa, l'avevo sentito, l'avevo preso in casa perché non l'ho ascoltato. Sì, vabbè, comunque, casino, guarda. un casino. Comunque, ti, per quanto riguarda la macchina, se senti qualcuno, fammi sapere, nuovo. Sì, e poi, vabbè, questo è anche abbastanza onesto, anzi. L'avevo messo in un gruppo, 70 euro spedito, grazie a UBI 50 euro spedito, ma lascia stare, andiamo a rimanere lì. Dipende, io per dire, vedo molti 48 casi super elaborati, quell'altro 300 euro, ma per 300 euro mi prendo la KF, non è che capita meno, secondo me non hanno prezzo, non posso ottenere prezzo, anche se realmente i componenti che ci mettono costano. C'è un po' di lavoro, poi con i componenti, le schede, scheda VIP, scheda Colt, tutto il lavoro che c'è, se lo fanno pagare, cioè per fare una modifica a me mi hanno chiesto 200 euro, e la radio l'ho detto io, grazie Luca, circa 200 euro. Figurati, no vabbè, io lo sai, mi stavo mettendo d'accordo con chi le fa queste cose qua, ma non conviene, non vale la pena, perché 5 lo fai, perché vuoi prenderti un ospizio, è una cosa tua, ma tempo perso e quant'altro, va bene, ci sta, ma farlo fare, sai già che devi spendere un sacco di soldi per una radio che non vale 100 euro. Beh, alla fine sì, e prima andava di più, adesso però come cavolo fai tu a vendere un 48 super modificato, bubba, doppio modulatore, quattro regolabili, VIP escludibile, tutte queste coglionate, 600 euro, un 48, cioè, ma va a cagare, poi te la fianchi. Come hai detto tu, 600 euro ti prendo un bel 140, un bel 450, un prezzo di alimentatore, altro che un racchino modificato. Sì, infatti. Che mi preparo, domani devo accompagnare anche i ragazzi a scuola presto, cioè oggi che mi posso portare più tardi, relativamente tardi invece devo fare questo per accompagnare a scuola, quindi cioè per me deve prendere il Sirio, insomma devo andare anche presto, l'altro devo entrare alle 8:30, quindi prima colazione e poi scuola e poi devo fare le cose mie. Mi preparo la roba e poi vado a collegarmi. Ti saluto, mi ha fatto piacere questa chiacchierata dopo tanto che avevo consentito, anche senza sentirci, ma già non mancherà nel modo nel luogo di vederci. Ci sentiamo, lui. Ciao, buonanotte. E altrettanto da parte mia, siamo, ho fatto scaldare un po' la radio, dai. sta frodando un fuoco questa qua. Alla prossima, ti ciao, buonanotte, ciao ciao. Ma ci vediamo mai qualche sabato, ci prendiamo un caffè, ciao. Ehi, ciao, ciao, ciao.